side, the New York Times side. Staying alive was no job at second hands. Moms bounced on old men. So then we moved to Shaolin land. A young youth, you're rocking the gold tooth. Low goose, only way I begin to G-York was drug loot. And let's start it like this, son. Rolling with this one and that one. Pulling out gats for fun. But it was just a dream for the team who was a fiend. Started smoking wools at 16. And running up in gates and doing hits for high stakes. E allora benvenuti al secondo, o al terzo, non ho capito, mi sono sbagliato, è il secondo direttone di Radio Forte. Applausone per il secondo direttore di Radio Forte. Oh. Dai, direttamente dal CSO a Forte Prenestina a Roma, siamo in diretta. Oggi in questo direttone parleremo del Pride che non abbiamo potuto fare, sentiremo, ascolteremo il secondo concertone della scuola di musica del Forte Prenestino. Ci colleghiamo col GAM della LAC che sta facendo una cena sociale qui vicino. Parleremo del Crack, che è un altro festival che non abbiamo potuto fare ma che faremo nel 2021. Ci colleghiamo e parliamo dell'Olé Festival, anzi sono qui se non sbaglio, e vi presenteremo anche un'altra fanzine. Quindi adesso ci sentiamo un altro po' di musica e poi partiamo col direttone, quello vero vero vero vero. Dai, knowing upstate's my destination. Handcuffed in back of a bus, 40 of us. Life as a shorty shouldn't be so rough. But as the world turned, I learned life was hell. Living in the world no different from a cell. Every day I skate from takes, giving chase. Selling bass, smoking bones in the staircase. Though I don't know why I chose to smoke cess. I guess that's the time when I'm not depressed. But I'm still depressed, and I ask what's it worth? Ready to give up, so I seek the old earth. Who explain working hard may help you maintain. To learn to overcome the heartaches and pain. We got stick up kids, corrupt cops, and crack rocks and stray shots. All in a block that stays hot. Leave it up to me while I be living proof. To kick the truth to the young black youth. With shorties running wild, smoking cess, drinking beer. And ain't trying to hear what I'm kicking in his ear. Neglect it for now, but yo, it got to be accepted. That what? The life is hectic. Cash rules everything around me. Cream, get the money. Dollar, dollar bill, yo. Cash rules everything around me. Cream, get the money. Dollar, dollar bill, yo. Cash rules everything around me. Cream, get the money. E quindi ben trovati, ben sintonizzati o ben podcastati a tutti e a tutte. Eh sì, perché quello che adesso ascoltate in diretta poi andrà tutto quanto a finire sul mega sito del Forte Prenestino e potete sentirlo e risentirlo come, dove e quando vorrete. Adesso con estremo piacere passiamo la palla alla nostra queen occupata e autogestita Ivanda e a capo, che ci parleranno un pochino del Pride. Ma buonasera amiche, fatemi un applauso spontaneo per favore, grazie. Benvenuti, ciao Radio Forte, sono contento di rincontrarti nel nostro amato CSOA. Devo dire che dovreste smettere di fare la diretta mentre io faccio il pisolino, perché poi mi sveglio sempre 5 minuti prima e ho questo vocione d'oltretomba. Ivanda, che tu hai il pisolino a tempi variabili, quindi noi variamo il tempo della diretta, tu ti sintonizzi sul pisolino, dobbiamo cercare insomma di migliorare, lo faremo. Lo so, diciamo che io vivo tra un pisolino e un altro. Ah, oggi è una data importante, se non sono rimasta indietro. E oggi è il 28 giugno, o sbaglio? Esattamente. 27, 28 giugno. No, aspetta, ecco, che controllo. No, è il 28. Ah, il 28. Allora, e come ben sapete, oggi c'è il 50esimo, 51esimo anniversario dei riot di Stonewall. Mm-hmm. Diciamo quello che ha iniziato diciamo, come si dice, le lotte degli omosessuali, delle trans, insomma. E quella notte ci fu questo riot in cui la polizia, come suo solito, simpaticamente, così irrussismo, questo tipico delle guardie, così nel locale di Stonewall, perché comunque gli estendamenti omosessuali non erano ben accetti ancora all'epoca, poi c'erano parecchie persone di colore, la storia si ripete. E quindi scoppiò questo riot, c'è questo mito del tacco lanciato che non si sa insomma se sia vero, però c'è questo mito che comunque una drag queen, una transessuale abbia cominciato i riot, quindi sì, esatto, state attenti insomma. amiche care. Parliamo un po' di cose froce con il nostro amico Product in questo momento. Ci sei, Product? No, non vuole venire, dice che è timido. Guarda, ci sei scritto qui sulla, sei scritto qui, guarda, c'è scritto Cavo Pride. Cavo Pride. Non so, forse ho sbagliato una lettera. Dovevo scrivere una lettera al Pride che quest'anno purtroppo non c'è stato causa Covid. Dovrei improvvisare una lunga e triste lettera con dire Cavo Pride, ma invece introduciamo l'amico Product, Cavo Fabio. Ciao amore. Sì, anche se tu sei bravissima. Quindi... Sì, lo so, ma con te sono ancora più brava. Va bene. Come quando facciamo musica insieme. Va bene. Ah, questa è una marchetta. E non metteremo un pezzo nostro dopo. No, non lo facciamo mai perché noi non ci interessa questa pubblicità così. Noi lo facciamo per il cuore, per l'amore. Esattamente. L'amore. Come ti senti tu quest'anno senza Prides? Come mi sento quest'anno senza Prides? Ieri a Bologna c'è stato un po' di movimento. Per quanto ne sappiamo. Anche a Napoli. Anche a Napoli. Sì, sono stati dei mini Prides. Dei mini Prides. E in questo momento c'è il Global World Pride online. New York. No, ce n'è uno su Grindr online. Ma smettila. Ma davvero? Subito. No, io Grindr non vado per i cazzi, vado solo per Pride. Le notizie. Ah, bravo. Ecco. C'è il Global Pride a New York e secondo me del Pride quello che ci interessa ricordare in questo momento è che appunto questa ribellione, questo atto di rivolta è nato dalla società afroamericana che c'era nel 69 a New York, quindi è importante ricordare appunto Silvia Rivera, yes, che ha tirato la bottiglia o scarpa 45 che, contatto, la scarpa quello, è più favolosa quello che era, che, insomma è stato importante e importante è stato il gesto di, da cui è partita tutta la rivolta, quindi ricordiamoci appunto di Silvia Rivera, ricordiamoci di Marsha P. Johnson che con Silvia Rivera aveva formato lo STAR, che era appunto il movimento transgender e questo è importante, insomma, ricordarci da a chi dobbiamo parte della dei nostra libertà, diritti riconosciuti. Sì. E niente, non mi hai detto tu come ti senti però senza Pride. Io come mi sento? Io mi sento che il Pride noi lo facciamo 365 giorni l'anno. Sì, come però l'antiproibizionismo è l'unica street parade che c'è rimasta. È l'unica street parade che c'era rimasta a Roma. Sì, quella. Certo, è una street parade dove c'è stato. Non voglio fare la frivola, dove, era tanto per. Dove immagino. C'è Taffo, c'è Santal, quei succhi di frutta arcobaleno. Oddio, l'anno insomma. Scorso c'era l'acqua arcobaleno, l'acqua del succo di unicorno. Esatto. Vabbè, però c'eravamo anche noi favolose con il nostro caro. Noi sempre favolose. Le sciamannate, le rejette. Quello mi manca. All'ultimo. Le rejette. Che arrivavamo sempre perché per come il rotto dice, della come diceva la compianta, la Cardo di Pigne. Che? La Carlo di Pignera, sì. Compia, ci chiamava le ultime, le reiette, ma era sempre felice di vederci. Sì, sempre. Sì. Io il mio primo Pride, quando hai fatto il primo Pride? Non prendeva un cazzo a nessuno, ma dobbiamo riempire quasi 15 minuti, quindi lo chiedo. Io il primo Pride non me lo ricordo, però è qualche anno fa. Amore piccola, sai il mio sì. primo di quando è? Del 94, del 95. Brava, ti ricordi pure l'anno? Sì, cioè, ero nella culla, mi ci ha portato mia madre, ovviamente non ci sono andata sola, mica sono così vecchia. Sì, no, quello che volevo dire anche era che Donna, come sei, in questo padre. Momento c'è gente che parla del Pride come un momento di un momento svago, per, ma non è così, no, lo so, per dimostrare trasgressioni, quando appunto quello che volevo dire è importante che non sia siamo indecorosi e lo siamo tutto l'anno, non solo il giorno del Pride. Ma certo. Questo è importante. E quello, come si dice, l'eteronormatività. Diciamo che si è infiltrata pure tra noi finocchi, questi che vogliono le cose in giacca e cravatta, che dicono come quella di Battista, quella che dice non si chiedono i diritti facendo le povere pazze. Sì, un pochino mi riferivo a quello che faceva quel coglionazzo là, sì. Vabbè, quello fa sempre ridere quando apre la bocca, insomma, sì. Poteva fare la modella, stava zitta, non era meglio? Insomma, secondo me molto meglio. C'è uno che mi tocca, aspetta, chi è? Ah, è l'assistente di studio. Michela, vieni, dimmi. Detto questo, bravo, una radio, vero? Di solito c'è la musica in radio. Detto questo, noi bravo. Per insomma 30 anni di Forte Prenestino abbiamo invitato un sacco di artisti che queer, che sono in prima linea per i diritti LGBT. E io mi ricordo dei concerti favolosi che potrebbero essere anche le Lesbian on Ecstasy tanti anni fa. Mi ricordo un sacco di concerti belli, fra cui mi ricordo anche che un primo maggio, non questo che purtroppo è saltato, quello dell'anno scorso, sotto una pioggia impressionante c'era una certa Brock Candy. Era quella pazza sul palco. Era quella pazza sul palco che tu hai presentato. E quindi vorremmo mettere un pezzo di sì, Brock Candy. Mettiamolo. Vai con un pezzo di Brock Candy. Ed è in collaborazione con l'artista transgender Sophie. Make me squirt. Amici Fortini e Fortesse, benvenute e bentornate in diretta su Radio Forte Libera, autoprodotta, autogestita. Qui accanto a me la favolosa Serena. Buonasera, buonasera. Applauso spontaneo. Incredibile, spontaneità del pubblico, grazie. Grazie, ma perché mi trovo qui? Perché? Com'è possibile? Perché oggi, come durante la seconda direttona della nostra Radio Forte qui dal GSOA Forte Prenestino, come la scorsa settimana, era la scorsa settimana o due settimane fa? Madonna fa. Mia, come vola il tempo, signora mia. Hai fatto un pisolone. Madonna due settimane mia, il tempo di passa più veloce del 3.14 qua davanti. Rimane più giovane di una settimana, invece no. No, invece no. Sempre più vecchia. Quindi ci appresteremo ad ascoltare il direttone. Il direttone! Il live! Un altro applauso spontaneo! Dei spazi musicali autogestiti del CSOA Forte Prenestino! Grandissima scuola di musica, piena di gente fittissima. Allora, aspetta, mi sono dimenticato di salutare Cavo che ci parlava prima del dobbiamo prato. Salutarlo, Cavo. Ciao, Cavo! Grazie, Cavo! Allora, mi raccomando, oggi è il Pride, quindi che la vostra interpretazione sia molto gays. Siate più LGBTQ possibili all'insegna dell'amore, bravo. Infatti, il brano che andranno ad eseguire questi fantastici musicisti è The Less I Know The Better dei Tame Impala. Brano che parla delle sorprese e dell'amore inaspettato. Non ti facevo così rozza. No, Impala. È un po' volgare così come giochi. Sì, se lo giri è Impala time. Cominciamo malissimo con questi gay jokes. È così. Ma io manderei direttamente in diretta. Suona il pianoforte, Gabriele la chitarra, Fabrizio il basso, Silvano for The Less I Know The Better. Eccoci, bravi! The less I know the better! Gli spazi musicali autogestiti al CSO Forte Prenestino! Senti, a proposito quindi di omaggi, senti che bel falsetto alla Jimmy Somerville che ci ha tirato fuori il suono. C'era anche delle mollette a supporto. Le mollette? Le mollette a supporto. Sì, perché ho steso i panni dietro al palco, lo so, ci sono le mollette lì, e lo so, è così. Senti, ma tu che corso vuoi fare? Non vuoi fare un corso di musica? Sì, un corsetto, bello stretto. Stretto, qua ci fa canto dimagrante, basso drenante, batteria per la cellulite. Eh sì, voglio fare solfeggio abbronzante. Solfeggio abbronzante, quello da agosto, il 15 agosto, il 15 settembre. Comunque ho conseguito il diploma di cantantessa qui nel 2015 o 2016 dalla scuola. Ma tu sei la meglio cantantessa del reame. Sì, ok, immeritatissimo ovviamente, però. E poi ho anche, se ti ricordi, abbiamo fatto anche una bella lezione insieme per superare un provino teatrale che grazie a te non ho superato. Grazie, ecco. Non ti chiederò mai più aiuto. Regresso, non è vero, scherzavo. Comunque questi grandissimi ragazzi della scuola che hanno popolato tutto l'anno questa scuola anche online, ragazzi, nessuno si è fermato, hanno seguito tutti i corsi, non fatto prove. E ci sarebbe dovuto essere il disagio, che è il nostro giorno del saggio. Quindi noi vi rompiamo i coglioni lo stesso. Non era in due diretta. Settimane fa il giorno del disagio? Cioè ormai lo stiamo riproponendo. Ma il disagio si ripropone. Dato che non lo possiamo fare in un giorno. No, perché lo il disagio reiteriamo. È ciclico, lo sappiamo benissimo. È ciclico, come la luna. Quindi. Sì, bene, vogliamo presentare il prossimo pezzo? Sono pronti. Dai, facciamo. Tu, siete pronti tu, voi? Dillo tu. Sono pronti. Io mi emoziono. Baby, I don't know se posso dirlo really? Io. You don't know. So let's play, baby, I don't know. Baby, I don't know what I'm gonna do with you. Don't you sa questa. Soprattutto per quante zanzare ci sono, cioè sono degli Highlander, i musicisti versus le zanzare. Sì, ma flotte aeree. Quindi questa era Baby I Don't Know, bellissima. E infatti tu non la sapevi. No, invece non sapevo chi è questo Wolf Pax. Oh, ora l'hai letto, ora. L'ho letto. Vabbè, ora il prossimo brano annuncialo. Qual è il prossimo brano? Allora, il prossimo io... Comunque, si è fatto un'area d'aperitivo così, un po' col ventisciallo. E Obladì, ma tu non sai... dei Beatles. Cioè, questo brano io nemmeno lo sapevo, però per di due cazzate meglio ho dovuto conoscere un po' meglio... La storia di Obladì Obladà. Intanto che vuol dire Obladì, lo sai tu? Quando uno spassata una certa età, dopo i 45, che quando ti alzi e ti siedi fai quando ti alzi. E invece vuol dire che la vita va avanti in un dialetto yoruba. Ah, figa, una cosa un po' buddista. Però, insomma, alla fine ha fatto scazzare tutti, perché quando Paul McCartney l'ha fatto, John Lennon gli si sono girate le palle, che se ne è andato. Così è una merda, gli ho detto questa gliela puoi dare a tua madre di canzone. Poi si è andato a fare 300 cannoni dietro allo studio, è ritornato con gli accordi cambiati. Si sono abbracciati. Altre 20 tipologie di Obladì Obladà con gli accordi cambiati e poi finalmente hanno trovato come farla continuare in avanti. Così. Capito? Così. Però si sono scazzati un po'. Manco tutti. Fossero stati poi pure Beatles. L'amico nigeriano che gli aveva detto Obladì che voleva dire questo, si è scazzato perché voleva i diritti e quindi Paul McCartney gli ha detto tiè. L'amico di Gerano senza diritti, povero. Senza diritti, niente. Bravo, così pure se ne approfittano. Era una merda. Ma questo può darsi, bravo. Era così. Sicuramente. E quindi il prossimo brano verrà eseguito dall'usignolo di Emanuela. Al basso c'è... Virgi. Poi c'è... No, questo è Gab, che non c'è scritto Gabibbo. Non c'è il Gabibbo, ma c'è Gabriella. Poi c'è Giuseppe, che è poi facile. E poi c'è Surno. E poi c'è il mitico Suonone. Ma impara a scrivere, c'è scritto Surno. Ho imparato ieri, dammi il tempo. Questo è corsivo, era difficile il corsivo. Ah, vedi che la chitarra Gabriella si è automaticamente trasformata in Silvano. Quindi hai insomma visto? Questa ciurma renderà giustizia alla vita che va avanti. Mi piace questa transizione. La transizione, sì. Certo, specialmente oggi ci piace a tutti la transizione. È proprio il giorno della transizione. E quindi Obladì Obladà. Molly, girl, I like your face. And Molly says she's where she takes him. bentrovati e bentornati. Radio Forte vi porta la musica live direttamente nella vostra cameretta. Proprio pare che stanno suonando in camera con aprite voi. Aprite la porta, la trovate la lì. Porta. Innanzitutto ancora e ancora Happy Pride Monto, Happy Pride Day, Happy Pride Live. The Sound of Pride. Sa, combattete sempre per essere come siete. Okay. Combattete possibilmente le paure. Non siate delle teste di cazzo, questo però va sempre detto, va sempre detto. Come diceva mia zia Rita del New Jersey, spread love, not mayonnaise. Esatto. Esattamente. E per il prossimo brano, abbiamo una canzone famosissima, una sigla. Una sigla. Non è le cicale. Non è l'amico, con quanto fiato in gola. Niente musica sovranista, abbiamo detto, vabbè. Lo sai non che Lorella è passata da icona gay a sovranista, icona sovranista. Baramante. Sì, c'è stato un grandissimo voltafaccia così. Baramante. Perché è uno dei personaggi che hanno abbandonato, hanno sfruttato il pubblico gays per farsi fama e poi li hanno così abbandonati. Ma che merde infinite. Ma noi siamo tutti amici. Brava. Quindi il prossimo brano, dicevamo, è un brano suonato dai Vocalones, ovvero un gruppo autogestito all'interno di spazi musicali autogestiti, che più autogestiti di così si muore, ragazzi. And I'll be there for you, the Rembrandts. Oui. So no one told you life was gonna be this way. Nessuno. No one told. Diretta, diretta, ragazzi. Eccomi, il bello della diretta. Non sono state fatte prove, nemmeno una prova. Nessun allievo è stato maltrattato per l'esecuzione di questi brani. Nessun animale è stato ucciso, tranne le zanzare, ribadisco. Brava. 3, 2, 1, dai! No one told you life was gonna be this way. Rembrandt. Quanta adolescenza, ragazzi. No, io ero già vecchia. Tu eri già vecchia. Mi sa che ero già vecchia pure là. No, quando c'era Friends. Almeno per questo no. Almeno per questo no. Bravi Vocalone. Il prossimo. Un altro di brano. Ma io sai che ne prendo sempre. Quanti questo me ne dai? È un testo facilissimo. Sì, è quello là. È sempre quello. Pop. Cioè il testo pop. C'è stato anche un misunderstanding, perché questo brano è Seven Nation Army, e quindi si era creato tutta un'ipotesi di complotto. Detto, allora i White Stripes l'hanno scritto contro la NATO. No, non gliene poteva fottere di meno. Non sai la storia del titolo perché non la so. Questa era la storia che hanno pensato. No, invece gli piaceva, lui era come tipo suonava. Una storpiatura di Salvation Army. Ah, ok. E siccome lui da piccolo diceva Seven Nation invece di Salvation, l'ha tenuto così. Come insomma. Quando io sbagliavo le canzoni. Come quando tu sbagliavi carino. Le canzoni da piccolo. Spasso, eri anche nell'esercito da piccolo. No, non è successo. Meno male. Per Seven Nation Army abbiamo Giulia alla voce, Virginia al basso, Giuseppe alla batteria, Silvano Suano. Seven Nation Army, carichi, piedi sull'acceleratore per chi guida. Boom. That time right behind my back, and I'm talking to myself at night because I can't forget. era Seven Nation Army diretta su Radio Forte. Siamo al giro di boa della nostra direttone, a metà della nostra diretta, circa poco più della metà. Cose inutili, non piace dire queste cose inutili. Benvenuto a metà della nostra diretta. Però non posso vederti, ma sei bellissima. Oggi non abbiamo sponsor. Mi sono dimenticato il pulsante degli sponsor. Degli sponsor. E quindi oggi è la giornata sigla. Ah sì, oggi è giornata. Ci sono dei microfono. Cori, ci sono delle interferenze. Non abbiamo sentito cos'era, vogliamo sentire. Più forte. È ubriaco. Dovete smettere di far bere le persone qui dentro. Sì, anche perché poi insomma da ieri notte è passato del tempo. Quest'ora già forse no, allora, è l'aperitivo. Sigle, questa è un'altra sigla. Vi yes, piacciono le sigle I'm oggi? I'm not Superman. Io conosco una che si chiama I am Superman degli Ariane. Questo è quello del telefilm per cui tutti dopo giocavano comunque al dottore. Io giocavo, non giocavo niente, giocavo al dottore, facevo la dislessica con le mie due cuginette. Quindi andiamo con la sigla di Scrubs, che non è No Scrubs, che è un altro brano, la sigla di Scrubs, I'm a Superman, played by Suono Ligabue. C'è scritto qua, che cosa? Suono Ligabue, non è Suono Ligabue. Sì, grandissimo Suono Ligabue. Suono al piano e voce Virginia Silvano. E questo è il nome impronunciabile, quello che l'ha scritta. Ah sì, Kish Lorraine. Laszlo. Ah ok. Laszlo. Laszlo. Da oggi ti chiamerò Laszlo. Laszlo. Play for Anna Superman. Ma voi sì. Passed by at a young boys in a car. The wife is working hard. She's running late tonight again. Well, we know what I've been told. You gotta work to feed the soul. But I can do this all on my own. Superman, I'm no Superman. You got your love online. You think you do it fine, but you just plug into the wall. If there's a tarot card, won't get you very far. There ain't no hand to break your fall. Well, oh no, well I've been told. You gotta know just what you fall. But I can do this all on my own. I know Superman. After all, I need you here with me. Oh, Superman. Meno male che non sei Superman, ma che bravi, Superman l'ho sempre trovato, io sono un po' geek, io leggo fumetti da quando avevo 5 anni, cioè da quando, il primo fumetto che ho letto era Yellow Kid, proprio io ho letto il primo. Solo la S, quella Superman. Sul petto. Ma Superman comunque era noioso, è sempre stato un supereroe piuttosto noioso, no? Sì, questo costume brutto. Il costume comunque. Brutto, quello è blu, la tutina e quello. Però noi insomma siamo così, all'insegna di tutti i supereroi, con il 100 c'è l'Avengers. Ma come mi ero preparato tutta la storia su Superman, le cose mi interrompo no, così. Racconta, no, mi interessa, così. Mi interessa. No, non ti interessa perché ti sei messa a parlare di altro. Parlami del cane di Superman. Krypton si chiama, non volevo parlare di quello, volevo dire quanto negli anni comunque Superman fosse è sempre noiosissimo. E l'unica interpretazione interessante di Superman sono state quella del videogioco Injustice, in cui lui diventa un fascistissimo dittatore. Che così che conquista il mondo. Invece quello più spassoso che volevo invitare gli ascoltatori, se non l'hanno mai visto, è One Punch Man, che è un anime. One Punch Man. Sì, One Punch Man. Ecco, l'assunto è questo: questo ragazzo è potentissimo, tipo Superman, non è super... e quindi si annoia. È molto veritario. Se Superman esistesse davvero, si annoierebbe. L'unica sua debolezza è un'allergia. L'avrei coccolato. C'è solo l'allergia. Ha una cosa di un altro mondo, tra l'altro. Magari non di Superman. La criptonite. Sì, alla criptonite, che è una cosa di un altro mondo. Dici Superman muore quando gli dà la soia. No, la criptonite che viene da un altro mondo. È tutto una soia. Comunque ho finito. Fantastico. Con il momento One Punch geek. Man. Che chic. Grande Wanda. Hai visto quante e ne continuiamo, so. Continuiamo. Quanti ne so anche. Quanti ne sai e quante quanti. Ne sai. Ma non parliamo quanti, di quanti, più quanti, devo dire. Sì. Queste, parliamo di fisica in questo momento, di particelle, di quanti. E il prossimo brano viene da Mosca. È Pretty Fly for a White Girl. Brano dei mitici Offspring, condotti da Dexter Holland. Brano che vuole così prendere un po' per il culo chi si atteggia a fare il figo con le ragazze. Ah, brava, quanti ne sai pure te? Ho studiato, cioè per fare la diretta tocca studiare, cioè la laurea in diretta. La mosca carina è quello che rompe il cazzo di rischiare. Oh, sì, poi c'è la mosca bianca, mosca cieca, insomma abbiamo tutte le tipologie di mosche se certo. Vuoi. Allora, chi la esegue sempre i nostri avvenimenti? Canta! Betta! Poi alla chitarra abbiamo... Frrrra! Alla batteria abbiamo... Silv! Al basso abbiamo... Fabriz! E poi ai cori abbiamo... Virg! E alla chitarra abbiamo... Gabriel! La nostra Gabiba Gabriella! Un applauso for Pretty Fly for White Girl! Bunker, Glibben, Glauben, Globen. For a white girl. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, cinco, seis. You know it's kind of hard just to get along today. Our subject isn't cool, but she fixes it anyway. She may not have a clue, she may not have a thought, but everything she lacks when she makes up in her mind. So don't it be a player's train. You know she really doesn't get it anyway. Gonna play the field, keep it real. For you no way, for you no way. So if you don't rage, just have a compensate. At least you know you can always go recollect. The world needs one of me, how? Hey, put them on your face. But a white girl, she is a cook, do not just anyone suffice. But they didn't have a cute, so they put vanilla pies. Not crossing in a pink fashion, she saw me such she passed. But if they don't start, they're gonna kick her really fast. So don't debate a player's fate. You know she really doesn't get it anyway. Gonna play that field, keep it real. For you know. Now she's getting it. tattoo, yeah, she's getting ink done. She asked for a 13, but they drew a 31. Friends say she's trying too hard, and she's not quite hip. But even on my, she's the dumbest strip. Featuring i Gabbiani del Tevere. Viva, bravi. Stiamo volgendo. Sembro io verso quando mi dicono fine. Ma sai che sei carina. Io ma non ti capottare. Qua rischiamo caduta speaker, ragazzi. E quindi volgiamo allora verso la fine. Sì. Ridiciamo che questo è il saggio della scuola di musica, spazi musicali autogestiti. Diciamo che il saggio infinito. Il non saggio infinito. Endless saggio che andava avanti forever and ever forever, durante le nostre dirette. And ever, e anche nei nostri cuori e nei vostri speriamo. Anche quando, anzi, volevo avvertire io alla discorso, se volete un saggio personalizzato, voi scrivete alla scuola di musica del Forte, ve lo fanno. Sì, sì, noi ve lo facciamo anche fanno sotto saggetti, casa. Pure saggetti, sì, saggetti saggioni. Piccoli, se vi dovete sposare, sì, il vostro saggio personale. Sì, se volete un saggio, e loro ve li fa, vi fanno tutti i saggi che voglio. Che non arriva un sapiente, arriva proprio una mandria di gente che arriva là, sono ave sotto Bravi. Casa. Perché spazi musicali autogestiti sono così. Sì, è un po' casa, è un po' una famiglia. Spread love, spread music. Che arriva quasi alla fine. Che c'è dopo? Dopo che musica c'è questo fantastico. Ci sono i Green Days. Avremo, mi ricordo, Giorni Verdi. Mi ricordo Giorni Verdi. Mondagne, Mondagne. Come si chiama la canzone? Braveheart. No, Strayheart. Ah, Strayheart. Perché c'è questa S qui che non c'entra niente. Ma non è una S. Ma non sai scrivere, è una S. Dai, allora mi insegni tu a scrivere tra un brano e l'altro. Va bene, facciamo che mi insegni a scrivere. E Strayheart verrà suonato da Silvano e Virginia Gabella. Suono! Vai con Strayheart! Precious heart was torn apart by me and you. Valerie travestita da qualcun altro. Dai, ma sempre a pensare male tu, però. Perché? Sempre a pensare male. È venuta prima questa o Valerie? Hai rovinato tutto. Non sono stai bravissimi come sempre. Hai rovinato tutto, ma adesso c'è questa tristezza. Perché? Perché il momento scuola di musica sta finendo. Ma sì, c'è l'ultimo momento. Sì, infatti sto, guarda, sto piangendo sotto le ascelle. Guarda, perché ti sono commosse le ascelle. Sì, mi sono commosse le ascelle, tantissimo. Ci tenevamo a dire che tutti i musicisti sono a distanza. Non le abbiamo detto tutte queste cose. Pallosissime, sono tutti a distanza, tutti qua, disinfettati, tutti puliti, tutti razzolanti e ruzzolanti. A parte Ulfio e Michele che stanno limonando selvaggiamente lì. Vabbè, ma non si vedono, nemmeno noi li vediamo e quelli della radio non li vedono, non ci fa niente. Insomma, questa radio si conclude con i nostri super, dei supereroi. Avevate già conosciuto Iron Man durante le sue puntate di Radio Forte, Radio Forte, CSOA Forte Prenestino, e c'era questo Iron Man che era piombato qui sulla terra a disturbare, insomma, Suano che doveva fare le sue cose, invece Iron Man gli ha rotto i coglioni tutti i santi giorni. Pertanto l'ultimo brano è la sigla di questo disagio. Che figo! Che figo, è fighissimo, te lo giuro, lo devi sentire, te lo giuro. Tantissime sigle, una perché siamo amici, una perché era quella anti-Covid, che era quella di Scrubs, era la sigla anti-Covid, e questa perché se la suoniamo e se la cantiamo soli. C'è anche la sigla LGBTQI, giusto per ricordare. Tutti, anche la sigla del Pride, quindi questo è 100 Challengers, ma ci tenevamo a presentare tutti gli allievi per la campagna Dotto d'Allievo. No, non è vero, la campagna Dotto d'Allievo non c'è, ma presentiamo gli allievi che hanno collaborato per questo disagio: Fabrizio Suano, Virginia Silvano, Emanuela, Gabriella, Giuseppe. Quando li dico due volte non ci fa niente, vi moltiplicate. C'è Fabrizio, abbiamo detto, Francesco, Emanuela, Julie, e anche un maestro che è venuto a trovarci, anche tutti gli insegnanti che sono io, chiaramente. Brava, tutti gli insegnanti sono Suano, Stefano che è qui presente, Damiano. Poi c'è Daniel, poi insomma un elenco di tanti nomi, Antonio. Poi tu vai, abbiamo... io ti addormento. Tu vai, tu non te ne ricordi manco uno, almeno ma ti un nome pare, lo io non mi ricordo dire. I nomi di quelli Corrado, con cui scopo, me devo ricordare Mirko, i nomi di questi, secondo Riccardo, te. Insomma un sacco di insegnanti, un sacco di cose. Potete suonare il flauto? Ma ancora, la smetti? Non ti volevo istigare. Comunque andiamo con la nostra sigla. 100 Challengers, suonata da Los Vocalones, il gruppo autogestito della scuola autogestita. Virginia, Suano e Silvano alla batteria, con un grande featuring con Matteo Stickby per un rap assolutamente autografo. 100 Challengers, spazi musicali autogestiti. Buon ascolto. Gente, saperne dove e quanti invadono altri mondi, accorsi da galassie, rimbalzano, conquistano, in onda sugli schermi danni. Yes, touch, don't touch, pisciole pallari. Tempo differente, agganciamento d'armi ancora più forti. Defender, Infinity Avenger, rilanciano l'attacco. Con un raggio corto c'è più impatto. Visioni, ti dicono i più forti. Nella salvezza delle gemme tuoni, tuoni e suoni d'altri tuoni. Park e Strange, ti dicono a titano. Al fianco stalk tutto sembra volgere in azione. Capitano Hulk e tu richiudono i portali. Ci congediamo da spazi musicali autogestiti e passiamo la linea. Dai, che c'è? Si allora, passa c'è, la linea. C'è Riccardo, tu c'hai il nome d'arte o ti chiami Riccardo? Jackie così ti posso Limbo, chiamare Jackie pure. Avete dedicato almeno un brano al vostro amore? Eh? Chi? chi? Qualcuno l'avrà dedicato un brano. Ora, quando li abbiamo fatti, ora non ce n'è più brani, non ce n'è più nemmeno uno. A allora, chi passiamo, guarda, la parola? No, a nessuno, mentre aspettiamo che i nostri amici vengano qui al microfono, perché dobbiamo disinfettare, perché noi disinfettiamo, dobbiamo i microfoni. Disinfettare i microfoni. Sì, da una cosa all'altra. Infatti io nel frattempo prendo tempo per ringraziare lo staff che sta dietro un sacco di lucine e bottoncini pulsanti, da qui Mirko e Giulia, grandissimo, un applauso. Che è Mirko? Vabbè, anche sbagliato. Mirko dei Behive e Mauro, però. E Mauro, fantastico, ragazzi, qualcuno ci sarà pure rimasto, no? Ogni tanto. Vabbè, qualche lap su. Mirko non è una parolaccia. Non è una parolaccia. No, è perché ci mancava Mirko l'insegnante, capito? L'ho dovuto nominare in qualche modo. Va bene, bravo Mirko. Ma l'hai ucciso? No, non l'ho ucciso. È rimasto ai Castelli Romani. Carino, in campagna, è il cugino di campagna. Vai, partiamo lui con un po' di sound. Andiamo col sound. Ciao. Grazie a tutti. Grazie. Radio Forte. Out in the street, they call it weather. Camp where the thugs and camp at. Two pounder within a van back. It in a your handbag, your knapsack. It in a your backpack. The smell of your girlfriend contact. Some boy not know this. Them only come around like tourists on the beach with a few club sodas. Bedtime stories and pose like them name Chuck Norris. And don't know the real hard quirka. Sandals are no back to. The thugs them we do where them got to. And won't think twice to shot to. Don't make them spot you unless you carry guns a lot too. A beer tough thing come at you. When trench town man stop laugh and block off traffic. Then them we learn pop off and them start trap it. We dip in file long and it a beat trap it. Police come in a jeep and them can't stop it. Some say them a playboy rabbit. Get dropped like a bad habit. Son of a da post off if you're down top it. Rastafari stands alone. Pure ghost and phantom. The youth them get blind by stardom. Now the king of kings a call. Whole man to pick me. So wave on no one if you with me. To see this operation sick me. Them suit no fit me. To win election them trick with. Then them don't do nothing at all. Come on, let's face it. I get our education's basic. And most of the youth them waste it. And when them waste it, that's when them take the guns, replace it. Then them don't stand a chance at all. And that's why enough little youth have up some fatmatic. With the extra magazine in a them back pocket. And a bleach at night time in a some black jacket. All who not lock glock said them a lock rocket. Them we fully up a current like a shock socket. Them we run a road block which but the cops block it. And from now till a morning no stop clock it. If them run out a rounds a broke back ratchet. Subside, north side. East coast, west coast. Yo. Cornwall, Middlesex and Surrey, y'all. Hey. Out in the street.